Netanyahu. Hola, canale 10, chi c'è sul 10? Tu sei Marco. E via Giulio. Un attimino che so chiudo la finestra. Eccomi. Eccomi qua. Sono tornato adesso dalla campagna perché mia zia anche oggi ci ha invitati a mangiare lì. Ieri sera eravamo a cena, oggi ci ha voluti a pranzo, per tanto dice domenica cosa dovete fare? A stare buttati a casa, quindi c'è da me, almeno scambiamo due parole, ci divertiamo. Siamo tornati da 5 minuti. Ok, avete fatto bene, certo, già bisogna uscire sempre, ogni tanto almeno, così vi lasciate un attimino meglio. È giusto anche frequentare un'altra parte della famiglia, per cui va bene così, ma è stato bene. Infatti, siccome ho visto colpi di portante, no? E credo fosse Claudio, ho detto Gurgugnau, invece non era Claudio di tu. O forse c'era addirittura qualcun altro in ascolto, non lo so. No, non ero io con la portante, era sicuramente Francesco da Usio, credo. No, io stavo guardando la televisione, anzi la sto guardando ancora, ma in questo momento c'è pubblicità. Vediamo se c'è. Francesco, ci sei? Era lui comunque, là. Adesso non rispondo, ha pensato che non c'era nessuno, magari ha chiuso. Però era lui che fischiettava. Prima ho fatto il beep. Se vuole entrare, qua siamo tranquilli, capito? Qua aperto a tutti. Bene. Così abbiamo passato una giornata diversa, perché tanto, come già ho detto a Claudio, io sto facendo un po' una vita da recluso, perché a parte uscire a fare la spesa, non sto più uscendo, ma dove vai a Sassari? Non puoi andare sempre sulla Platamona a pigliarti gelato, a farti giro lo Shan, non è attrattivo a Sassari. I sassaresi si accontentano dei bar, come sempre succede, capito? Basta che si beva, si mangi e i sassaresi sono contenti. Io vorrei qualcosa di più. Vabbè, che devo fare? Poi non ho più 20 anni nemmeno, quindi anche quella voglia di fare che c'era 20 anni adesso non c'è più. Che te devo dire? Che devi dire? Sì, in effetti Sassari non offre niente di bello, dunque uno si annuia, però uscire devi uscire lo stesso, anche se magari vai a fare solo una passeggiatina, quindi piano piano, senza bisogno nemmeno di camminare troppo il vento. Così, un giorno in una zona, un altro giorno in un'altra zona, anche se città, ripeto, non ha molte attrazioni, però cosa ci stai a fare a casa? Sempre buttato magari dalla poltrona al divano o dal divano al letto e così via, no? Io ecco tutti i giorni, la verità, magari la sera posso anche stare a casa, però la mattina, tutta la mattina esco da presto, verso le 9, e sono tutta la mattina giro in giro, per cui mi svago lo stesso, capito? E anch'io vivo a Sassari, non è che sto vivendo da nessun'altra parte. Due passi, trovo un amico, magari un caffuccino, così non a frequentare un fisso il bar, no, assolutamente no. Vai, prendi un caffè e poi due passi, oppure prendi un cappuccino o una bibita, insomma, io alcolici non ne bevo mai, non ne ho mai bevuto e non ne bevo mai, per cui quello già non mi interessa. Non sono un abitudinario del bar, però la mattina se incontro un amico, ma nel senso da solo non ci vado nemmeno, ma se incontro un amico, un caffè o un cappuccino di solito, o un latte macchiato, queste cose così. Quello sì, tutte le macchine si può dire. Sì, anche perché io al bar più che altro vado per caffetteria o per bibite, tipo un bizzer, un crodino. sei sempre un alcolico, che so, invece quando ti siedi ai bar, quelli con i tavolini, cioè dovunque guardi, guardi avanti, birra, birra, birra, anche le ragazze, giovani e meno giovani, birra, birra. Se stare diciamo questa cosa della birra è una cosa. Ma hanno anche poca fantasia, perché ci sono tante cose da bere, anche alcoliche buonissime. Però sai cos'è? L'alcol fa da lubrificante sociale. Certe persone, se non hanno l'alcol che li rimuove i freni inibitori, non riescono a combinare nulla, né a conoscere una ragazza, né a divertirsi, capito? Che detto tra noi, molte persone attualmente senza l'alcol non si divertono, questa è la triste verità. Sì, ma è un'abitudine pessima quella, non si può uno andare a bere alcol, perché l'alcol innanzitutto fa male alla salute, primo, come fa male anche la sigaretta, ma la sigaretta è già un po' diverso, ma l'alcol ultimo è una cosa proprio assolutamente odiata da me, perché non è possibile, guarda, che uno possa andare a abbruttirsi così, perché incominci prima un bicchiere e poi il secondo, magari non hai fatto colazione e incominci ad alterare i tuoi ideali, e chissà poi cosa può finire. Assolutamente no, tu mi dirai, ma uno si deve controllare, perfetto, ma se già tu non corri quel rischio, non bevi di alcol, che poi è una cosa che non ha assolutamente necessità il fisico umano di bere roba alcolica. Beviti una lanciata, beviti un provino, beviti un bicchiere di qualsiasi tipo, che ne so, mangiati una pasta, beviti un caffè, ma non c'è bisogno di andare lì. Tu lo vedi alle 8 del mattino, io tante volte l'ho visto, cosa bevi? Un bebè, che vuol dire che tu bevi? Un cognac, cazzo, ma quando mai? Oppure un whisky? Ma questi sono pazzi, per me questa gente è pazza, no, non sono persone sane di mente, figurati. No, non ci si deve comportare così, non ci si deve trattare così, perché quello significa trattarsi male da soli. Naturalmente dobbiamo specificare che gli eccessi fanno male, cioè io oggi mi sono bevuto di un bicchiere di plastica 6 mm di amaro, ecco, dopo pranzo, 6 mm proprio, un fondino di bicchiere, perché vabbè, è buono, niente da dire. Però c'è gente che si beve una bottiglia di vodka al giorno, adesso non voglio fare esempi tra le conoscenze, però c'è gente che si distrugge, che sta tutti i giorni a bere whisky, finché birra ancora, però te l'ho detto, il termine esatto è lubrificante sociale, perché la gente probabilmente per rimuovere i freni inibitori hanno bisogno dell'alcol, se no non si divertono, è quella, pare ai miei occhi, una cosa strana. Come per esempio anche di che gli spinelli fanno male quando ne fumi tutti i giorni e più volte al giorno. Se tu vai a vedere, a parte che ci sono dei farmaci che usano gli stessi principi attivi, no? Cannabinoidi, no? Ha molte capacità terapeutiche, chiamiamolo spinello, canna, come lo puoi chiamare. Però è chiaro che se vai tutti i giorni a farti quella roba lì, ti distrugge, capito? Bene, adesso per esempio c'è un negozio di elementari qua vicino, no? Mi ricordo che c'erano 35 gradi di temperatura, no? Io sono andato a comprare i gelati, no? Una bella cosa rinfrescante, no? E c'erano un gruppo di ragazzi e ragazze, sai, 25 anni, no? Sono andati ai negozi elementari, cosa hanno preso? Tu dici una cosa fresca, no? No, si sono comprati la bottiglia di vodka, una bottiglia di vodka, cioè sono anche poco intelligenti, con 35 gradi di temperatura ti va a comprare la bottiglia di vodka, a fumarti e proprio a fonderti il cervello, no? Sono detto, sono anche poco intelligenti. i giovani adesso. Non sono proprio poco intelligenti veramente, ma nello senso della parola però, non tanto, di tanto per dire. Perché io capisco, una persona ha pranzato, beve mezzo bicchiere di vino, è anche terapeutico, perlomeno va benissimo così. Ma che uno beva fuori di casa, dalla mattina alla sera, dell'alcol, oppure che ti fai trovare per strada con la bottiglia della birra in mano, sia i maschi che le donne, no, non va bene. Infatti intanto per una questione di dignità, perché se no questa gente che non ha nemmeno dignità, che poi si abbruttisce con l'alcol, è il primo passo per poi rotolare nel mondo anche degli stupefacenti, perché l'alcol non ti basta più e poi vai a provare anche altre cose. È da cretini, è da persone poco intelligenti, che io, per me non è una cosa giusta da fare, da lottare. Ogni persona dovrebbe cercare di controllarsi e salvaguardare soprattutto la sua salute, invece no, si abbruttiscono in questo modo, perché pure lo sappiamo quante persone, e tu mi dirai, ma si ammala lo stesso una persona, certo, si può ammalare lo stesso, ma una persona che non beve ha meno probabilità, cioè di ammalarsi di meno di un'altra persona che beve. Uno diventa ubriacone a un certo punto, in poche parole, perché un bicchiere non ne basta più, poi ne beve un secondo, terzo, e poi diventa un'abitudine. Non va bene, Marco. Lo so. Per dire, come ho detto prima, poco intelligenti, cioè con 35 gradi, se proprio vuoi un alcolico, pigliati una birra fredda, no? Pigliate una birra fredda, almeno vi rinfrescate, no? La vodka calda, cioè a temperatura ambiente, figurati i fumi dell'alcol poi. E vabbè. E il problema è che la soglia di... si sta abbassando la soglia di quelli che bevono, fumano. Già a 14 anni fanno di tutto, fumano spinelli, spacciano anche volendo e bevono di brutto, perché tanto poi l'amico maggiorenne gliele procura, capito? Mandano un amico di 18 anni compiuti e in discoteca li vedi che si riducono come uno straccio, li vedi proprio svenuti, e quando non pigliano pure pasticche, metanfetamina, ecstasy, MDMA e tutte quelle porcherie chimiche che sono terrificanti, ogni tanto ci scappa il morto, come vedi. Tutti i giorni, tutti i momenti, anzi non tutti i giorni, tutti i momenti, solo che tutte le notizie non si sanno tutte, però molto molto spesso ne sentiamo, tutti tantissimi giorni ci sono i morti proprio a causa dell'alcol e soprattutto di queste droghe così che vengono. Claudio, sei tu. Non è possibile che possano rovinarsi in quella maniera. E non mi venga a dire, ma quello è minorenne, ma guarda che una persona, un ragazzo che è sano di mente, non ha bisogno di diventare maggiorenne per non fare certe cose. Perché? Perché sa benissimo qual è il male e qual è il bene della persona, qual è un atteggiamento che non deve assumere e quello che è il comportamento perfetto di persona seria. Lo sa, anche dall'età di 10 anni, 12 anni, sa già come si deve comportare. Solo che oggi, soprattutto certe famiglie, non sono in grado nemmeno di educarli questi ragazzi, per cui basti vedere e ragionare un attimino in questa maniera. Cosa succede a dei figli quando due persone si separano, marito e moglie? Che fine fanno questi figli? Ma non sappiamo che fine fanno, no? Nella peggiore delle ipotesi diventano delinquenti, perché lo sappiamo. Tu basta vedere quei processi che fanno, adesso in questo periodo non ci sono, ma quei processi che fanno in televisione verso le 2, 2:30, una cosa così, furono. Di questi casi ce ne sono a centinaia e centinaia, tutti i giorni ne parlano di queste cose. Per cui vedi bene che a un certo punto i primi in compare sono proprio i genitori che oggi non sono in grado di educare i propri figli. Sì, sì, quello è vero. Ti faccio un esempio tipico, madre casalinga, magari un po' debole di carattere, padre che lavora magari 10-12 ore al giorno e quando torna a casa non vuole sentire nulla, capito? È chiaro che i figli fanno il proprio comodo, tornano alle 6 di mattina, anche a 14 anni, 15 anni tornano alle 6 di mattina, io nemmeno lontanamente avevo questa libertà, capito? Potrò tornare a mezzanotte a casa, ma non... e purtroppo è così, purtroppo è così. Vediamo se è arrivato qualcun altro sul canale, avanti, chi vuole entrare. Vai, qualcuno è. Mimi, due. Vabbè, Claudio, ero in campagna, siamo andati a mangiare sbaffo anche oggi. Invece qua, c'è un po' di gente, mi sono andati adesso, sono stanco molto. L'ho fatto detto la mia moglie stanotte, niente cena, un po' di frutta e basta. Mamma mia, come sto? Ciao Giulio, buonasera. Buonasera, amore. Buonasera, buonasera a tutti e due. Ciao qua. Buonasera anche allora fammi, come sembra che era forse al mattino. Vabbè, un attimino. Sì, oh Marco, continuando quel discorso, tu immaginati un padre di famiglia o un marito, avanti, mettiamolo su questo tuo, un marito che arriva a casa mezzo sbronzo. Quale concetto e quale idea può avere di lui la moglie, per dire, o i propri figli, tanto mi ha dato un'idea, no? Ecco, abbiamo detto tutto, non c'è bisogno nemmeno di spiegarlo, perché lo capisce anche un bambino di 3 anni, l'effetto che può avere nella mente di una donna quando un uomo arriva ubriaco, o viceversa, o quando la moglie fa i suoi comodi magari con altre persone, con altri uomini. È lo stesso discorso, non cambia molto, per cui vedi bene che la situazione è molto, ma molto, è molto grave. Vediamo chi era l'altro amico, avanti, mi sembra Bacchisio, avanti amico. Ma non è che era Bombolo, no, mi sembrava Bombolo. Buonasera, ma non ti ho riconosciuto, eh. Avanti, buonasera, presentati per cortesia, vai. Giulio, Claudio e Marco, avanti, tu che sei? Antonio Bombolo, ciao. Ah, ciao Antonio, come va? Ah, già, è vero, no, aspetta, hai ragione, perché avevo il coso della voce di lato, sì, adesso ho capito benissimo. Sì, perché posso, con questo apparecchio posso cambiare anche il timbro della voce alle persone. È un vecchissimo apparecchio, un cobra vecchissimo. Va bene, avanti. Riprendi qua. Ehi, ciao Anto, buonasera, ben ascoltato. Così è. No, quella è una cosa che a me ha sempre fatto schifo, Giulio. Queste persone corte per la strada, mamma mia, che cosa brutta. Oppure rientrare a casa, come sta succedendo spesso. Il marito ubriaco, il figlio mezzo andato, se la prende con i genitori o con la moglie. Sono cose bruttissime quelle da non vedere mai, per conto mio. Poi ognuno a casa sua fa quello che le piace. Avanti, Anto. Addirittura papà e fratello entravano ubriachi e facevano un casino, anche la polizia non si fa. Dio mio. Pomponio. No, è fantomello di queste cose. È una persona seria. Prima infatti, poi si arriva. Ecco perché femminicidi. Proprio per queste motivazioni. L'alcol dal cervello purtroppo. Sono cose molto molto brutte. E poi che concetto ne hanno i tuoi figli? Vabbè. Avanti Marco, avanti. E io poco mi trattengo stasera, che ne so, già le 7. Ci devo mettere a posto qua. via. Naturalmente sto scherzando con il pomponio, no? Poi, vabbè, lui non ha figli, quelli che hanno figli, e noi abbiamo avuto un esempio in famiglia, mio zio, già, quello avevo già detto, no? Però il figlio ha reagito in modo diverso. Il figlio si è dato un grande affare, voleva studiare, ha preso i titoli che doveva prendere, poi è andato in mezzo Europa a lavorare, compreso Medio Oriente. Ha avuto una reazione forse di repulsione proprio al modo di fare del padre e si è dato veramente da fare tuttora. Adesso attualmente è in Irlanda. E cosa fa? Allora lui si occupa di ristorazione. In Polonia in primo momento aveva aperto una gelateria con tre soci, poi comunque lui si è sempre barcamenato nell'ambiente della ristorazione, tipo sai quello che coordina gli altri in sala, non so come si chiami, Giulio, non so se ti viene a te. No, non lo so. Il maestro. Cioè, esatto. Sì, ma io dico anche questo, Marco, perché parto io sempre da questo principio, da questo ragionamento, perfettamente d'accordo che un genitore si abbruttisce magari in giro per il bar, arriva a casa e fa anche scandali. I figli, cioè io sono piccoli e si sa, vedono padre in queste condizioni e giustamente non sono certamente contenti, o perlomeno prendono una cattiva strada. Però conosco delle persone che hanno avuto un padre in famiglia proprio in queste condizioni, ma quando sono diventati grandi, che potevano ragionare con la propria mente, sono diventati delle persone esemplari, ma proprio gente come si deve veramente, a differenza del padre che non è stato in grado di dare a loro un'educazione familiare decente, perché si ubriacava e magari la moglie poi si sa, ne faceva quanto lui in altri modi. Eppure conosco io dei figli che sono veramente bravi, gente come si deve, gente onesta, gente seria, che non, certamente non hanno assolutamente preso l'educazione di questi genitori, o perlomeno quando sono diventati grandi con la loro mente riescono a ragionare e non si abbruttiscono come hanno fatto i genitori. Ecco, c'è anche questo da dire. Poi ci sono quelli che invece non riescono nemmeno a ragionare da adulti e continuano nella pratica educativa dei genitori, questo sì, lo sappiamo. Comunque, avanti Antonio. Chi ti è mancato? Sì, ma non c'è più. Ma che tua madre? Anzo, dovresti premere bene il tasto e poi parlare, perché si è sentita solo la portante. Sì, me ne sono accorto. Sì, è successo. 5 mesi fa. Ah, 5 mesi fa è mancata tua madre, non lo sapevo. Non lo sapevo, non lo sapevo nemmeno, penso che non lo sapesse nessuno per questo. Va bene, e purtroppo il caso della vita, anche mia madre era morta, quando era morta, in dicembre mi sembra, se ricordo bene. Sì, il 1° dicembre era morta. purtroppo, ma mia madre era abbastanza grande, aveva 95 anni, tua madre certamente era molto, ma molto più giovane, confermi tu? Sì, sì, è molto più giovane, sì. Purtroppo la vita riserva questi dispiaceri, e cosa ci vuoi fare? Siamo tutti di passaggio nella vita. Avanti Claudio. No, io già lo sapevo. Purtroppo è così. La vita continua. Fiora di due, anche io avevo 3 mesi quando è morto babbo. Quindi mamma già c'è ancora. A Polottolo, cioè, vabbè. Però è così. C'è niente da fare. La vita deve continuare. E bisogna soffrire. Bene, Mera, il tempo sta cambiando finalmente. Avanti Marco. Ehi, genitori, purtroppo io c'ho mamma, me la devo tener conto, però poi è un dramma. Allora, mio cugino, mi ricordo che aveva, non so se in Polonia o in Germania, perché prima mi pare è iniziato Germania, poi Polonia, poi Inghilterra, poi Dubai, poi era andato, non so se nelle Filippine o dove, adesso non Inghilterra, quella a fianco, Irlanda, no? Solo che, come ho detto io, se non mette radici alla fine non lo so cosa ne esce da... E dicevo, lui aveva anche importato, a parte la geletteria in Polonia, aveva importato il caffè, la tazza d'oro in Polonia, proprio per farlo conoscere, mi pare sia sardo la tazza d'oro, sì, cioè non sto sbagliando io, in Polonia proprio per far capire, per far conoscere questo caffè della sua terra, dai. La tazza d'oro è sarda, mi pare sia dalle parti di Italia. Ehi, va bene. Purtroppo poi in Polonia con i soci non è andata bene, perché alla fine erano 3 soci e dice che loro si pigliavano tutte le ferie, volevano, alla fine lui, quando voleva pigliarsi le ferie lui era sempre un problema, ma così, ma non va bene, insomma, la situazione non era più sostenibile e li ha mollati e se n'è andato a lavorare per conto suo. Mangiare bisogna mangiare tutti i giorni, per cui se uno lavora seriamente la ristorazione non può fallire, salvo alzate di testa da parte dei ristoratori, allora il discorso è diverso, ma se uno lavora in maniera onesta posso anche dire che magari possono anche non arricchirsi. Però campi, e campi bene, non ci sono dubbi, perché purtroppo il genere umano ha necessità di mangiare, ha bisogno di mangiare, per cui se uno fa quel mestiere lavora di sicuro, non è come altri mestieri che sono spariti, proprio che non ci sono più, e fra un po' anche il falegname sparisce. Vedi Sassari, ad esempio, se tu vai a cercare un falegname a Sassari ne troverai siano 2 o 3, non di più, parlo di Sassari in città, poi magari ne troverai 2 o 3 per supplenza niente, ma tutto sommato non è sufficiente il numero di falegnami per poter bastare per la città di Sassari. oggi come oggi da me vengono sempre a chiedere se faccio qualche lavoro, ma io non sto più lavorando, per cui non ne sto facendo, ci mancherebbe altro. A parte il fatto che non ho, adesso nella condizione che sono non andrebbe nemmeno molto bene, al limite posso fare qualcosina per casa mia, ma solo per me, ma non per gli altri, ci mancherebbe altro. Va bene, e cosa ci vuoi fare Marco? Tu mi dici, bisogna tenere conto tua madre, beh certo, ci mancherebbe altro, è chiaro che te la devi tenere conto tua madre, dargli tutte le attenzioni più inimmaginabili, certo, ma non solo tua madre, anche tu devi prendere tutte le attenzioni che necessiti, perché è giusto che sia così, perché la vita, si sa, è un giro, non guarda se uno ha 90 anni o se uno ne ha 50, per cui bisogna fare molta ma molta attenzione. E torniamo col discorso di prima, è utile andare ad abbruttirsi, come stavamo dicendo poc'anzi, con i vizi, che poi magari può essere la causa o quasi sempre la causa di una morte prematura, Marco. Ahia. Comunque dovrebbe, tornando al discorso, mio cugino si dovrebbe stabilire in una zona, comprare casa, perché alla fine fare il nomade, non lo so, c'è una moglie filippina, vabbè, sarebbe presa filippina, c'ha due bambine, una un po' più grande tra virgolette, una piccola. Solo che sai, lui italiano, lei filippina, si parlano in inglese, però non mi piacciono me questa Babilonia, no, mille lingue, poi va bene, problemi suoi. E poi che altro, io gli avevo detto a suo tempo, vista la situazione familiare, detto tra noi, no? Io gli ho detto, Luca, vattene più lontano possibile da questo posto, perché se rimani a Sassari fai la fine mia, eh? Per fortuna lui aveva la volontà di, non aveva paura di viaggiare come ce l'ho io, aveva la volontà di viaggiare, di fare, quindi già si è dato da fare. E dice che a Dubai c'era un periodo, sai, per colpa di questa ISIS, di questi musulmani che sono mezzi scoppiati fuori di testa, si stava generando un ambiente brutto a Dubai. E praticamente chi era occidentale rischiava aggressioni, roba del genere, e ha preferito con la moglie andare via da lì, e stava diventando un po' bruttina la situazione. Sì, perché succede sempre così, appunto per quello che dico, bisogna cercare di condurre una vita migliore possibile, perché se no poi ti ritrovi ad una certa età, non sai più cosa fare, trovi sbandato, e quando sei adulto in età avanzata è difficile anche, purtroppo è così, e cosa ci vuoi fare? No. Poi il fatto che lui sia andato fuori, io questo magari per lui va bene così, poi ci sono quelle persone che invece non ce la farebbero a vivere così lontano dalla loro terra, e lo hanno dimostrato tantissime persone che sono andate fuori e poi sono ritornate in Italia, e non tutti siamo uguali, dai. Io lo stesso, se avessi fatto una vita del genere probabilmente non ce l'avrei fatta a stare sempre fuori per sempre, sicuramente sarei ritornato, magari sarei potuto andare per esigenze di lavoro, che grazie a Dio io non ho avuto da ragazzino, perché ho sempre lavorato, sono stato pure fortunato, saranno stati anche altri tempi, perché in realtà erano altri tempi, fin quando poi, quando ero diventato grande, giovanotto grande, operaio, che mi sono inventato io il mio lavoro, perché mi ero messo in proprio, e ho tenuto 47-48 anni di attività artigianale, sicché vedi bene, a un certo punto uno dice la fortuna, sì, ma la fortuna bisogna anche cercarsela, costruirsela in qualche maniera, perché se no non puoi pretendere che ti cada così dal cielo, devi anche darti da fare. Avanti qua. Certo che sì, scusa, già vabbè, sto guardando i cosi, stasera c'è Sampdoria Napoli, mi pare, vabbè, ma ora già, siete qua, io sono stanco, ho un mal di schiena, c'ho tutti i difetti, vabbè. Va bene, c'è freschetto, mi sembra che siamo arrivati. Stanotte ho fatto la notte brava e praticamente anziché andare a dormire mi è venuta quella smania di far roba, di vedermi un pezzo di film, di andare al computer, di fare roba al computer. Praticamente poi mi è venuto un po' di appetito proprio perché ero sveglio. Alle 4:15 di notte mi sono fatto un cordon bleu. Mamma era mezza dormita, ha detto, te lo mangeresti un cordon bleu? Ci siamo mangiati il cordon bleu alle 4:15 di notte. Poi, prima di pigliare sonno, si saranno fatte le 5. Infatti io lì ero un po' sonnato, è la verità. Quindi stanotte mi devo rifare del sonno perduto. Non va bene, non fa bene, il ritmo circadiano deve essere rispettato, no? Il ritmo sonno veglia, se no rimani tutto scombussolato, capito? Stanotte cercherò di andare a letto a mezzanotte massimo e di dormire soprattutto. Ok, bene, che ore sono fatte? Vabbè, gran parte della serata è andata via, stando lì, siamo andati via alle 6 da Monti Minuddu, lì Pignoni Monti Minuddu, e come aveva detto Giulio una volta, c'è una falegnameria attaccata alla campagna di mia zia. Claudio forse mi pare l'ha già individuata la zona. A Giulio avevo mandato addirittura sulla mappa il puntino per far vedere la zona, non è proprio bancali, sì, grosso modo è lì, però non è proprio bancali. Ok, lo so, è oltre bancali, sì, lo so, grosso modo sono, sì, è vero. È così, qua, comunque io ogni volta la partita l'ho vista, al computer l'ho vista, e devo dire che, ma io mi sono abituare a dare più palloni a quel fenomeno, perché sennò sarà difficile. Già lo marcavano in tre, per cui era più difficile riuscire a liberarsi. E pensa che ha fatto 7-8 tiri in porta, fra questi in porta proprio ne sono arrivati, gli altri li ha buttati fuori, 3-4, non di più. Che non possiamo pretendere che possa segnare questo giocatore così, facendo solo 3-4 tiri proprio nella porta. No, non va bene. Devi a giocare in attacco, non sempre in difesa come fa, che poi subisce anche gol da una squadra come il Chievo, da una squadra come il Parma, eccetera, eccetera. Per dire, no, non mi è piaciuto per niente, ho qua. Capisco che ancora sono appena tre partite, si deve adattare bene al gioco italiano, ma già gli avversari lo marcano così 2, 3, 4 persone, uno dietro l'altro, è chiaro che quello ha pochi movimenti. Ma se non gli dai palloni e se non riescono a smarcarlo come si deve, no, sarà molto difficile anche per lui, nonostante la grande forza che ha. Avanti di qua. Aspetta, ma quindi il costosissimo CR7 ancora non ha segnato, no? Vai Claudio. No, non ha segnato, però sta giocando, cioè Higuaín mi sembra che quando è arrivato, no, aveva fatto il primo gol con la Fiorentina. Lui sta giocando, Marco, sta giocando e non è facile, lui ha fatto 9 anni con Real Madrid, un altro tipo di gioco, altro tipo di cose, ci sono tante, però vedo che insomma si sta ambientando, stanno segnando gli altri e pazienza, va bene così, e Higuaín con Lumina ha già fatto, ha fatto un gol, la nebula annullato, fuori gioco. Però la cosa che ancora non capisco, qual è la squadra titolare, Giulio, questa ancora io non ho capito, come mai Dybala è in panchina, come mai ieri ha giocato Cuadrado, non ha giocato Cancelo, come mai Douglas Costa continua a entrare sempre al secondo tempo, sono tanti come mai che non capisco, quando la squadra l'ha già fatta, Cancelo a destra, Alessandro a sinistra, il centrocampo lo conosciamo, la difesa la conosciamo e le punte devono essere quelle, Douglas Costa, Dybala, Mandzukic, Ronaldo, non connetto, non so. Io te l'ho già detto all'inizio campionato, squadre, Materasso non ce n'è, sono tutte squadre forti, dall'ultima in classifica alla prima in classifica, ok, tra l'altro dal 19 dicembre c'è anche l'impegno della Champion, quindi si giocherà anche in Champion più campionato, voglio vedere cosa succede quest'anno, voglio vedere. Ma io dico semplicemente una cosa, per me doveva cambiare allenatore la Juve, se avesse preso magari Ancelotti al posto di Allegri probabilmente sarebbe stata tutta un'altra musica. Non mi piace per niente il gioco di Allegri, nella maniera più assoluta, questi tocchettini sempre sulla loro aria di porta, ma quando mai? Tenami, avremmo avuto i palloni avanti, in verticale soprattutto, perché non fai lanci lunghi come si deve, che quello è una velocità supersonica, che quando aggancia il pallone poi per rincorrere ci vuole Bolt, ci vuole, quel campione di 200 metri, non è possibile, non è possibile. Questo tipo di gioco che fa, queste formazioni così, mi complica il seno, mi complica che è in grande forma e mi metti terzino o poi a Cuadrado. Ma Cuadrado va bene giocare sulla fascia, non terzino, lui l'ha messo proprio terzino, ma quando mai? No, che lira, allo stesso tempo, allo stesso momento, che lira non è presente in forma, ieri ha sostituito Pjanic, ha sostituito che stava giocando molto ma molto meglio di Chiedira e che lì me l'ha lasciato in campo, non va bene, non, per me lui è convinto di essere chissà chi, questo Allegri, per me Allegri non è allenatore da Juve nella maniera più assoluta. Altrimenti, ma ha vinto, sì che ha vinto, certo, perché agli elementi ha vinto, non è che ha vinto lui, no. Hanno vinto i singoli, perché il gioco in 4 anni che c'è alla Juve non ha fatto vedere mai un gioco decente, sempre questi tocchettini, questi giochi, ma quando mai? Ma per carità, dai Marco. Io non posso mettere bocca perché non ho l'esperienza. No, ma chissà cosa c'è dietro pure, eh? Partite truccate, intrallazzi. A me sembra il mondo del calcio corrotto come quello del cinema. Ah, come questi casini di produttori, di Agrigento, di denunce reciproche, mi fanno solo ridere, guarda. Io non ce ne vuole esperienza per vedere il gioco della Juventus. Basta guardare le partite. A me 3 su 3. Può anche andare bene il punteggio, ma gioco io non ne vedo ancora della Juve. Non vedo nessun gioco, caro Giulio. Quindi, che poi il punteggio è quello che fa la differenza, ma a me non me la fotte nulla. Voglio avere una squadra grintosa, una squadra forte, una squadra che dà spettacolo e soprattutto che non prenda gol. Invece Bonucci ha fatto una partita da schifo ieri. No, io non l'ho vista, ma l'hanno detto. Ho fatto una partita da schifo. Proprio il pareggio del Parma è stato al 90% colpa sua. Poi gli altri, non lo so. Però ti ripeto, è inutile che già andiamo a criticare un pallone d'oro come Ronaldo, che è il più forte calciatore al mondo. Se tu la palla non gliela dai, lui non può inventarsi, non può segnare. Quando gliela dai, magari in una posizione difficile, una posizione che è anche per chi ha la sua esperienza del gol, per chi ha la sua bravura, perché non ce n'è per nessuno, è difficile. È difficile. Poi queste partite ha trovato portieri con le contropalle, scusando il termine, perché due gol gliel'hanno tutti, gli hanno negati, l'altra con la partita precedente è lo stesso, perciò insomma c'è da valutare anche questo. Vabbè, speriamo bene Giulio, forse ne dice TV. Per me da juventino sportivo ti dico che la Juve la Champions non la vince neanche quest'anno, se vince il campionato è troppo. Chi lo sa, speriamo che riesca a vincerla una volta per tutte, sarebbe ora. Adesso vediamo. Sì, ancora io non è che lo critico assolutamente Ronaldo, non lo posso criticare perché è il giocatore più forte del mondo, non c'entra quasi. Capisco magari che non è come giocare in Spagna, qui le difese sono più forti eccetera eccetera. Quando poi quando c'è un elemento come Ronaldo tutti lo marcano con col coltello tra i denti, per cui è chiaro che diventa più difficile. Poi c'è anche da dire questo, non è che gli stanno mettendo anche troppa pressione, no? Tutti questi giornali, tutti questi luci, tutte queste cose. Cioè, un atleta a un certo momento si sente questa pressione in mente, che non riesce poi magari a esprimersi al meglio. Però devo dire anche questo, che oggi, vabbè, ieri non molto, ieri è stato abbastanza deludente se vogliamo, però è sempre un giocatore imprevedibile, che ho visto mancato da tre giocatori, riuscivano a uscire lo stesso e a liberarsi al tiro. Ma chi è? Non si può tutte le volte fare queste cose, ci mancherebbe, perché lui è di una velocità, ha uno scatto micidiale e riesce sempre ad arrivare per primo sul pallone, però quando cominci tu a mancare un giocatore, uno dietro l'altro, scatti uno, c'è subito l'altro a un metro di distanza, è chiaro che oppure ti mettono in mezzo, ti mettono, come fa a uscirne? È difficilissimo. Poi lo parliamo del portiere, se continua così quel portiere lì, io penso che Pirin gli prende il posto, perché lì ha fatto delle papere proprio assurde, un uomo di 1,90 m, e meno male che ha preso la traversa, perché ci è mancato poco, perché quel tiro era centralissimo e lui non è riuscito a prenderlo. Ma quando mai? Un uomo che ha alto 1,90 m, che non c'è bisogno nemmeno di saltare, basta allungare il braccio con un pallone che ti arriva così al centro della porta e tu lo prendi per forza, se sei un portiere. Se poi si è addormentato è un altro discorso. Avanti Marco. Yeah. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, ho sentito due colpettini importanti sotto o sopra. No, vabbè. Allora niente, non pervenuta. Vabbè, io di calcio non posso mettere parola, eccetera. Per quanto simpatizzante, solo perché lo era nonno per la Juve. Però per il resto il calcio da mangiare non me ne dà, i soldi in tasca non me ne entrano. Quindi figurati. Io vabbè, non è questione di soldi in tasca, è sport. Dopo che stavo guardando la nazionale italiana di pallavolo, ho guardato il Gran Premio, insomma. Lo sport piace, il calcio è un'altra cosa, però già va bene. E vabbè, ho Giulio, è così e basta, no? La palla bisogna darle a un giocatore che sai che può fare la differenza, la palla. Invece in questo momento la Juve sta pensando a segnare chiunque, ma poi da Bernardeschi, due assist che poteva dare a Ronaldo, a tirare due da Davura, anche anche la Grascotta ieri c'era Ronaldo a fianco, ha fatto quel bel sinistro quasi all'incrocio dei pali, passa la palla, non ve lo dava, vabbè, comunque ti ripeto, guarda, io non mi preoccupo più di tanto, tanto è vero che ieri potevo andare a vederla da qualsiasi parte, non ci sono mai andato. Quando è a casa me la guardo, quando no, manco l'ascolto, niente. Mi hanno solo comunicato il risultato su WhatsApp e mi hanno scritto sotto partita da schifo. Quindi, assolutamente. Vabbè. Va bene ragazzi, però io vi devo mollare, dai, mi ha già chiamato mia moglie un paio di volte, devo anche dare a mangiare a Filippo. Puglia se ne va per i fatti suoi, però devo preparare la pappa. Quindi vi lascio e mi siedo un po' nel divano perché sono stanco morto. Oggi è stata una giornata, mamma mia, da stamattina, poi domani pomeriggio bisogna chiudere tutto il baravano e quindi mi devo anche organizzare a preparare tutto. Vabbè, dai. Vi saluto, grazie alle due chiacchiere, ci aggiorniamo domani per tutti. Domani mattina me ne vado al mercatino, salgo mia moglie al mercatino, Giulia, a ver se trovo un po' di frutta e verdura fresca. E poi a casa. Ciao Marco, ciao Giulio, chiunque sia in ascolto, Antonio se sia ancora all'ascolto. Ci sentiamo domani per tutti. Buon fine serata, buon fine domenica. Vai Giulio. Ok, ciao qua. Grazie a te per la chiacchieratina. A domani, dai, ci sentiamo domani. Vai, riposati, che il mal di schiena è brutto, già che so io qualcosa che ogni tanto anche a me mi pizzica la mal di schiena. Comunque, già passa, dai. È solo una questione di stanchezza. Riposati, tranquillo, e così almeno domani sarai fresco come una rosa. Avanti Marco. Ciao Claudio, e infatti dopo che si hanno ospiti, mamma mia, per quello noi non ospitiamo nessuno, è una rogna. Ok, dai, sentiamo le prossime, tanto fra poco sono la mezz'oretta, sono le 8 e così poi devo controllare le cose al computer. Dai, alle prossime, dai. E quindi Giulio, a Cerabombolo, non so però se si all'ascolto ancora, sapranno la Bombolo, ci sei, mi sa di no. Penso proprio di no, magari ha qualcosa da fare anche lui. Sì, allora dimmi una cosa Marco, e poi alla fine si è andato bambino questo PL, che parliamo di altro, no, non di calcio, mi si è considerato che tu di calcio non ne mastichi molto. Ma come sono andato pure il PL, cosa era successo? Quel famoso discorso che stavo facendo qualche giorno fa, che avevi qualche preoccupazione, eccetera, per quanto riguardava il PL, l'antenna, eccetera. Chi è? Buonasera. Francesco. Io ci arrivo da quelle parti, sì. E la voglia. Ciao Francesco, anche prima te l'avevamo chiamato perché credevamo avessi fischiato tu all'inizio appena siamo entrati. Ben entrato, guarda c'è Giulio e Gianni, ben entrato. Dottiru. No, non arrivi Gianni, sei basso. Lui ti saluto adesso, c'è Marco avanti, avanti Marco per Francesco. Poi Giulio abbiamo parlato in due, dai. Allora di nuovo Francesco, ben entrato, è entrato anche Gianni, a Gianni gli ho detto Gianni sei basso, non arrivi. Ah cosa Gianni, sono Luca, Gianni non sono, Luca. Scusa Luca, chissà perché, non lo so, mi sembra vedo più rume dalla battuta, dal bip, ho preso una cantonata, dai. Ehi, anche oggi in giro era basso, eh. Era in campagna, mangiare fuori, è sottratto alle 6, è così, dai, molto bene. Allora Giulio, per quella storia, prima di tutto non ho più trovato tutto il materiale per saldare, c'è solo un saldatore, quello un po' più forte, che va già bene, però devo prendere almeno lo stand. Tutto il resto del kit è scomparso, eppure io l'ho visto pochi giorni prima, io l'ho visto, chissà in quale cassetto, in quale meandro è andato a finire. Vabbè, prima o poi lo troverò. Sì, c'era questa presunta dissaldatura all'interno della presa d'antenna del baracchino. Non l'ho vista questa dissaldatura, non l'ho nemmeno aperto, non avendo tutto il kit, però sicuramente è quello. Aspetta che abbasso il ricevitore. No, perché ho tolto il PL dell'antenna, l'ho messo al ricevitore sulla 27 e riceveva benissimo. Lo metto su questo baracchino e va benissimo, quindi si è dissaldato internamente. Sai, io sto molto, quando vedo le nubi, no, temporale, sto svita, poi il cavo è grosso, quindi fa molta trazione sull'SO239, sicuramente qualcosa dentro si è dissaldato. Tant'è che proprio non riceve più il baracchino, e quindi appena prendo lo stagno o appena ritrovo il kit lo metterò a posto. Adesso sto usando quello omologato senza Smitter, quello si chiama Intec 150 modello M150, quello che stai usando adesso. Mentre l'altro, ciao Luca, scusa un attimo Francesco, poc'anzi c'è stata la sovrammodulazione. Sì, quello che stiamo usando adesso è l'Intec, d'accordo. Volevo un altro modello, il primo del nome, avrebbe detto Marco. Fai girare tu pure, per Luca o per Francesco. Vai Marco. Sì, esatto, il Superstar 3009, quello omologato. Perché mentre i vecchi Superstar si chiamavano Superstar, tutto attaccato, questo omologato si chiama Superstar staccato, capito, 3009, ed è quello che viene commercializzato in versione omologata dalla Proxel italiana, dalla Proxel. Adesso purtroppo in catalogo non c'è più, speriamo che qualche altra ditta lo reintroduca. Prima ancora lo faceva la CRT Francia, poi la Proxel, adesso si spera che venga rifatto perché lo ritengo sempre valido come apparato. Allora, rilancio per Luca, dai, Luca del Monte, vai. Dai, sono entrato a salutarvi, sono qua in ascolto, che sto riparando un telecomando. Comunque, ciao a tutti, dai, avanti Giulio. Ok, ciao Luca. Lo sai come si fa per riparare il telecomando, per vedere se funziona? Lo sai, senza bisogno di usare il televisore, niente, lo sai? È rilanciato Giulio, ho capito. Per sapere se i tasti del telecomando funzionano, non c'è bisogno che tu hai accendi il televisore, assolutamente. Tu metti la radio e lo metti a pigliarla, e schiacci vicino al telecomando, e schiacci il telecomando, e vedrai che la radio fa ticchi ticchi ticchi, insomma ti fa un segnale. Ogni tasto che funziona ti fa un segnale. Se non funziona qualche tasto vuol dire che no, quello lì che non funziona, capito? No, io ho altri segreti, Giulio, no. Ci sono segreti più facili, dai. Cosa fai? Prendi il telefono che è una telecamera. Accendi la telecamera, punti il dispositivo che è il telecomando alla telecamera e vedi se lampeggia, e lei lampeggia. Se lampeggia vuol dire che il telecomando funziona, se non lampeggia il telecomando non comanda. Sì, è lo stesso concetto, è uguale, ma Luca, è uguale. Sì, no, perché dico, il radiotecnico lo ripara in quel modo il telecomando. Accende una radio, accende un ricevitore di segnali, schiaccia i pulsanti e si rende conto qual è il pulsante che non funziona. Perché? Perché ti dà una specie di scarica tutte le volte che schiacci. Li provi tutti e vedrai, li provi e vedrai quanto è facile. Perché non devi nemmeno aprire, non devi fare niente, devi solo provare così. Poi, se vedi che c'è qualcosa che non funziona, allora la prima cosa da intervenire sono sempre i led, perché di solito cade il telecomando, magari si può rompere un led, e allora può essere quello è la prima cosa. O perlomeno i contatti, perché si sa, ci sono quelli che schiacciano troppo forte, e schiacciano una volta, due volte, 10 volte, 100 volte, e finisce che poi devi schiacciare sempre più forte per fargli fare contatto. Poi a un certo punto non fa contatto più per niente. Ecco come la storia. Va bene, avanti Gianni. Gianni. Vai Marco. No, perché prima io ho detto Gianni, ero convinto che fosse doppio rum, invece era Luca. A meno che non ci sia anche Gianni. Doppio rum, ci sei? No, no, non lo voglio. Francesco c'è, dai, riprendi con Francesco. Guarda, non posso dare il segnale perché qua non c'è Smitter, però ti sento abbastanza bene. Allora, spiego, siccome io sto sempre o cambiando baracchino, oppure quando c'è temporale svito il PL, poi sto specie di tavolino che ho per il baracchino, lo sto sempre spostando a destra e a sinistra, no? Il cavo è grosso, poco flessibile, quindi fa abbastanza trazione. Probabilmente con tutte queste operazioni di spostare il cavo, spostare il cavo del tavolino, a vizza, svizza, magari c'era una saldatura fredda all'interno del baracchino, proprio dove c'è la presa dell'antenna, e è andata peggiorando finché proprio non ricevevo più nulla. Invece messo su tutti gli altri baracchini, funziona senza problemi, ho provato a muoverlo e non lo fa, e quindi deve essere che si è saldata una saldatura che si è, magari era fatta a me male, mi fredda già in fabbrica, già lo sai che in Malesia, in Cina le saldature certe volte non sono fatte bene. Caspita, però avevo tutto il kit, tutto sparito, anche la lente di ingrandimento, le pincette per tenere fermo il componente, tutta quella roba era tutta in una busta e non so dove sia andata a finire. Così come mi è sparito il rosmetro a colatore buono, diciamo il migliore che abbia avuto, è sparito anche quello. E purtroppo diciamo che in questa casa ci mette mano troppa gente, no? Certo ci dà una mano a mettere a posto, ma alla fine questo di spostare gli oggetti da una stanza all'altra non lo considero nemmeno ordine. Bene, e quindi vediamo, aspetto un po' di giorni se salta fuori il kit. Bene, se no compro lo stagno e mi uso solo lo stagno nuovo. Ok. Anzi, ero pienamente convinto che fosse il PL proprio delle antenne, invece è anche più seccante perché devo aprire il baracchino, devo stare attento che non cadano gocce di stagno sullo stampato, insomma un po' più delicata la cosa, ma niente che non sia fattibile. Vai Giulio. Ok Marco, sì, ma perché il 289, il PL 239, perché si muove quando avviti, non si dovrebbe muovere quello, sì che non capisco come può essersi disandato all'interno, Marco. No, allora, avevo provato anche con le pinze a pappagallo, no, a stringere quella, il vitone che lo tiene, ma era già stretto. Forse il centrale ha mosso proprio la parte centrale del connettore, non lo so, anzi proprio non avendolo aperto, non so cosa sia successo dentro. Ma sicuramente te l'ho detto, una saldatura bene o male, purtroppo questo cavo grosso è vero che è un po' una rogna, l'RG213. Se me avessero detto in tempo, guarda che l'H155 è molto più sottile, è come il 58, è flessibile e ha lo stesso guadagno, o per meglio dire la stessa perdita, avrei preferito il cavo sottile a questo grosso. Questo in effetti è una seccatura, però adesso ce l'ho e me lo tengo, diciamo è abbastanza robusto, dai, anche. però è poco, poi sa che l'H1000 è peggio, l'H1000 ha il polo centrale rigido ed è ancora meno flessibile del 213. Vabbè, adesso c'ho questo, me lo tengo, se no a cambiare 50 metri di cavo mi tocca fare una... E poi è nuovo, mi c'è 2-3 anni c'è la prossima cavo. Lo so, Marco, lo so che mi direte che io non ce l'ho il cavo rigido, io ho la camminia, cioè, si può immaginare, a luglia, altro che... E con questo anche, il filo un po' locando è proprio rigido, non è a tanti fili, è proprio unico, rigido, è proprio del rame rigido, se che ti puoi immaginare, più rigido del mio non è di sicuro il 213. E tu fai così, non ce l'hai un deviatore d'antenna, non ce l'hai, attacchi lì e poi ti fai lo stressone con la calcio 145, ti fai, e così quello là rimane sempre fisso e non fai altro che spostare lo stressone, basta, oh Marco. E anche se non si dovrebbe fare perché ha diversa... No, va bene invece, perché il 213 ha la stessa velocità di trasmissione del Mach 145, sicché va benissimo così, oh Marco. Quel lavoro lo puoi fare, tranquillo, tranquillo. Eia. L'H1000 è un bel cavo, vedi, è a meno perdita, molta meno del 213. E anche quello non sapevo che... Ma poi pensa che la differenza di prezzo era minima. Forse sarebbe stato bello anche l'H1000. Avrei avuto anche meno perdita, più guadagno, insomma, già ci siamo capiti. Aspettate, riprendete un istante voi che vado a prendere, ho bisogno di bere acqua. Riprendete un attimo, arrivo subito. Ok, sì. Dovete fare già da camminare che è schermato al 100%, mentre invece nel 213 è schermato all'85%. Ecco dove la differenza, per cui il vantaggio è quello. Quando è schermato al 100% è sicuramente più sicuro per il fatto delle interferenze, eccetera, eccetera. Perché non è solo la lanterna che manda avanti, soprattutto dal cavo, che le spughe vanno fuori e disturbano gli altri servitori, eccetera, le altre apparecchiature dei serventi. Avanti, Luca non riprende, avanti Francesco. Buonasera. avanti chi era che ha salutato? Buonasera a tutti, Maria, no, sono nascosto giù, c'è gente qui in casa, ha continuato, avanti Giulio, ciao a tutti. Ciao Maria, allora già avevo capito che eri tu. Sì, ciao Maria. Grazie per essere entrato a salutare. Ci sentiamo eventualmente quando è possibile, dai. Se siamo ancora qua a faccio, ti va perché sono quasi le 8, dunque quasi ora di cena, ma comunque siamo qua, almeno per il momento. Marco, sei entrato? Caffa, eccomi qua. Ciao Marino, guarda che ho ricevuto quella foto, però non ho capito che cos'è. Ma è un amplificatore audio quello, cos'è? Mi è sembrato di capire che è una cosa audio, non è un amplificatore RF. No, è un amplificatore tipo quello che uso, no scusate, quello che uso per la vendita in giro, là. Melanzane, cipolle, così via. Quello che ci dopo le mosso che fanno le vendite sulla frutta in giro. Tutto qua. Vabbè, scusate, non ti manca che c'è gente di più di un altro. Cappa, infatti non mi era familiare, infatti mi chiedevo anche l'arrotino, no? Cosa avesse in macchina per fare i cosi, donne, è arrivato l'arrotino, no? Tutte quelle con le trombe, invece sul mezzo, no? Ho capito, che poi ha la stessa funzione del PA del baracchino, infatti in macchina ho messo, ho Giulio, guarda cosa mi è venuto in testa. Ho messo in macchina una tromba, un altro parlante a tromba della Midland, che poi anche per esterni, no, è a tenuta stagna. E quando metto PA col baracchino posso, una volta ci ha tarato uno in macchina, questo non si muoveva, ho attaccato il PA, attimo, e quello si è girato, non capiva da dove arrivava. Non so che già funziona così, sì, beh certo. Qualche venditore ambulante anche l'avevo fatto quel giochetto lì anni fa, utilizzava il baracchino come altoparlante per farsi per richiamare le persone, no? quando andavo in giro a vendere le verdure. No, già funziona, già lo so che funziona così, oh Marco. È anche forte, perché se metti la tromba è anche abbastanza forte. Basta che abbia la stessa resistenza di uscita, i soliti 8 ohm, e funziona che è una meraviglia. E va bene, dai. Meglio così. Capito Marco, io ripeto, quello. E tu dovresti adottare quel sistema, visto considerato che cambia continuamente, o ti compri un direttore d'antenna, e così almeno non fai altro che spostare l'interruttore, e ti fai vari sezioni e attacchi le radio che ti interessano, o perlomeno, come ti ho detto, ti fai uno stretore corto, che poi non c'è bisogno del direttore d'antenna, prendi un connettore che attacca al WPL, che puoi attaccare il WPL e ci metti la parte sottile, H155, così è maneggevole abbastanza quel cavo lì, capito Marco? Per cui non è un problema quello. Sì, infatti, e poi quella del selettore lì, un deviatore d'antenna, è una spesa che avevo preventivato da anni e non l'ho mai comprato, anche perché è inutile comprare Uxin, perché ne ho lette di cotte e di crude. Bisogna comprare almeno Daiwa, un volgare deviatore a due vie d'antenna o commutatore d'antenna, come lo puoi chiamare, almeno Daiwa, perché sennò non servono, introducono perdite, introducono problemi di vario tipo. E vabbè, se ne parlerà. Io mi ero riproposto di non comprare più niente per il baracchino, nulla, né un microfono né nulla, però proprio il deviatore d'antenna mi tornerebbe più utile. Ok, Francesco, dimmi com'è questa modulazione, è abbastanza passabile? Sto usando un baracchino della mutua. Buono. Sì. Oh, ne ho letto anche di dive, amico, con saldature forse soffredde, oppure che gli davano stazionarie, macelli. Alla fine o si va su prodotti professionali, però costerebbe più di questo baracchino e non ne vale la pena. Lo ZG aveva dato problemi a chi, mi pare doppio room, se non ricordo male, gli aveva dato problemi, non so. Vabbè, dipende come nasce, se l'hanno costruito bene. Comunque meno di Daiwa non conviene, a quanto ho capito. Prox e Loxin sono quelle copie, che poi sono copie dei Daiwa, a me sembra, serve quel 2V che di forma è triangolare, vagamente triangolare. Giulio sicuramente ce l'ha presente qual è. Sì, lo conosco bene, Marco. No, io secondo me si dovrà decidere quel tipo che ha all'interruttore, che c'è una sfera per farlo, per il movimento dell'interruttore, quello dovrebbe, che poi è Daiwa, mi sembra, dice proprio quello, ma quelli dovrebbero andare bene. Come si sa, forse diciamo che è un tantino migliore di quello della ZG, ma quello della ZG è proprio una mondezza. Io ce l'ho nuovo e non l'ho mai usato perché non è possibile. Bisogna vedere le caratteristiche sempre del commutatore di antenna, se decide quello che ha fra uno scatto e l'altro, che abbia almeno un 70 decibel di schermatura, perché se no, se tu metti due apparecchi, uno ce l'hai in ascolto e l'altro ce l'hai magari in trasmissione, e li senti tutti e due, li senti, perché quando tu giri l'interruttore su una trasmissione c'è l'altro che anche quello riesce ad entrare, sì, che ci vuole un commutatore che sia schermato di almeno minimo 65-70 decibel, se va ancora più schermato va ancora meglio. È così, Marco, vai, riprendi. Sì, avevo letto qualcosa, ma ho visto che i valori, almeno di Proxel e di Oxin, che poi sarebbe anche la Fayette, ha 10.000 nomi, è un po' scarsino, boh. Perché alla fine stacca solo il centrale, la massa rimane comune, boh, infatti non lo so, vediamo poi se è il caso di acquistarlo anche. Se non faccio quello spezzone, vediamo un po', dai, devo decidere. Poi, come vedi, io microfoni da tavolo non ne sto più usando, è inutile, a me piace il palmare. A me il microfono da tavolo sì, è comodo, ogni tanto puoi bloccare la portante per regolare il tone, ma non mi si vala, non mi si vala. Non... prende spazio, se lo urto qua sul bracciolo di legno sai quante volte ho rischiato di farlo cadere a terra e scheggiare anche la vernice, è un macello, qua mi viene male. Se avessi tutta una scrivania mia per le radio è un conto, ma qua spazio non ne ho. Sì, quello sì, vabbè, questo è di abitudine. No, io uso sempre il microfono a tavolo, in questo momento sto usando l'MBV4, ma poi ho anche il coso, l'altro, che è ancora forse migliore di questo. Poi ne ho uno sempre palmare, l'M300 addirittura, no? E se vuoi dire la verità non mi ricordo, non l'avevo piccato, perché non l'ho più usato. No, io preferisco quando ero a tavolo, preferisco Marco. È una questione di abitudine, ogni modo. Però tu non ti puoi lamentare, perché la radio è buona, anche se ha il microfono normale, la tua radio è buona. Tanto più che le radio che stai usando tu non modulano come le radio antiche di una volta, che modulavano se no il 40, 45, 50% massimo della radio. La radio che stai usando tu modulano il 90%, 95%, per cui vanno abbastanza bene anche quelli così, palmari o Marco. Peraltro questo è proprio il microfono originale, che non so, questo non lo so, non so se sia condensatore o se sia capsula classica da 500 ohm, però presumo sia condensatore, ma non ho nemmeno aperto, non ho voluto nemmeno guardare. Aspetta che ho perso il filo un attimino, mannaggia. questo è Alzheimer galoppante, mi. No, è una cosa, ma cosa stai dicendo? Sei troppo giovane ancora, cioè, non te lo volare mai, ci mancherebbe. No, no. Sì, no, ripeto, i microfoni dei baracchini di ultime produzioni sono tutte modulazioni da 90-95% di modulazione che danno. Se rassomigliano molto anche al microfono preamplificato da tavolo, per cui va bene, no, non ci sono problemi. Va bene, dai, io purtroppo vi devo salutare, sono 8:05. Le 8 e 6 minuti per l'esattezza e devo scendere giù. Grazie, mi hanno già fatto squillare il telefonino e devo scendere, probabilmente è già pronta per la cena, pronta la cena. Ciao Marco, a domani, fatti sentire però. Ci sentiamo. Grazie per la chiacchierata. Ciao Francesco, anche tu fatti sentire, dai. A domani, ci sentiamo. Ciao Francesco, alle prossime, le prendi. Allora, ciao Giulio, buonasera Mutuzzo. Purtroppo non sono molto presente perché negli ultimi tempi sto notando una certa sonnolenza, tipo che mentre vi ascolto al baracchino mi abbiocco, stavo pensando che non fosse un po' questa cura ormonale a seguito dell'operazione che dia un po' di sonnolenza. Anche all'ora del film certe volte mi viene un po' di sonnolenza e insomma un po' seccante, dai. Però adesso aspettiamo che si stabilizzi la situazione e poi valuteremo. Peraltro fra poco dovrò ricominciare lo stesso a fare esami, a fare visite di controllo, poi mamma si vuole operare e quindi deve fare radiografie, visite, come si chiama? Per la gamba, vabbè, già hai capito. Poi dovrà prenotare l'operazione che sarà fra vari mesi. Ui, ci aspetta una serie di andate, una via vai dell'ospedale, una cosa indegna, che poi l'ospedale è peggio della galera, guarda. E anche lì ci sono degli aguzzini, devo. È vero, è vero. A seconda di dove vai ci sono gli aguzzini anche lì. Lo stesso, ciao Francesco. Qua entra quando vuoi, vedo che anche negli altri canali sta entrando poca gente, non ho più sentito, anche Antonello di Ossi sta parlando poco, magari lo ascolto, mi dice, ciao Antonello, sarà ascolto, ma sta entrando a parlare poco, non ho più sentito nemmeno Gianni da Porto Torres o da Nubi, adesso non mi ricordo, e sono sparite persone che prima entravano. Non entrano più, non ne ha più voglia nessuno di parlare al baracchino, chi c'ha problemi in famiglia, chi è impegnato al lavoro, alla fine stiamo diventando mosche bianche, capito? Finché un giorno sono 27 sparirà, e allora pazienza. Ok, buona cena a tutte e due, ci sentiamo anche domani, dai, se sono abbastanza sveglio, ok? Ok, ciao Marco di nuovo, salutoni a domani, dai, non ti preoccupare. Anch'io adesso fra un po' dovrò andare a fare visita di controllo, addirittura per trovare il dottore che per l'operazione che avevo subito, sì, si è guarito, però per essere guarito proprio al 100%, guarda, passeranno 4, 5, anche 6 mesi, proprio per essere come prima. Vabbè, ci sentiamo, ciao Marco, grazie ancora, alle prossime, ciao Francesco, alle prossime, ciao Marino se sia all'ascolto, ciao. Ciao a tutti, buona cena, ciao. Ah, ciao Lu, ma eri all'ascolto, credo che avessi chiuso. Ciao Lu, ci sentiamo. E tu oggi cosa hai fatto? Eri fuori, hai mangiato fuori? No, ho appena andato a casa della mia ragazza e poi siamo andati a farci un giro. Lì verso la marina di Sorso, poco fa sono rientrato. Una passeggiata con i cagnolini, un gelatino e poi la rientro a casa. Io, come dicevo prima a Giulio, a Claudio, a parte sì che ci hanno invitato oggi, ieri, però a parte uscire a fare la spesa non sto uscendo molto perché Sassari stanca. Cosa fai a Sassari? Sempre a Platamona lo stesso, come ho detto prima, a Platamona piglia il gelato, ma non va niente Sassari, non lo so. E d'altronde io di viaggiare non me la sento. Non me la sento di trasferirmi, a parte che non ho proprio le finanze per mantenermi, quindi dove vado io? Dove vado io? Nato a Genova, però morirò a Sassari probabilmente un giorno. Capito? Guarda che è brutto passare una vita intera a Sassari, non uscirei mai da Sassari. Marco, lo so. Diciamo, a me mi piace fare viaggi lunghi in macchina, sì, mi piace guidare, ma non assai, perché anche se la mia ragazza sa guidare, però è meglio che guido io, per sicurezza. E poi per quanto riguarda Sassari, non venuta. Adesso oggi vai alla Marina, domani vai ad Alghero e dopo domani vai a Trentino, sai. Non vai sempre gli stessi posti, se no non ti piace, e vedere cose nuove, capito? Andare in casino a fare chilometri e chilometri. Io purtroppo a me non, prima lo facevo, adesso non mi piace più guidare, per esempio io andare al Ghero, noi andavamo sempre al Ghero gli altri anni, è già da qualche anno che non vado più al Ghero, nemmeno al Ghero, cioè non ho voglia manco di guidare verso al Ghero. E alla fine lo stesso vado sempre a Platamona, lì, Riviera di Sol, tutte quelle zone lì. Però alla fine è uno spreco avere la patente, la macchina e non viaggiare. Poi viaggiare fuori noi parliamo, poi l'aeroporto era un caos lì a Milano, tutto un casino, di vedere il Milano centro, vedevi i tacchi che andavano e venivano, tram su binari, tram su gomme, che poi sarebbero lì gli autobus. Era un caos, un caos. Sassari sarà anche troppo tranquilla, ma grazie a Dio, se vai lì è una buluzzo, vabbè. Poi detto tra noi, lui, c'è chi è predisposto a viaggiare, abituato, no? E si trova bene. Io a viaggiare mi trovo molto molto male, a viaggiare almeno fuori dall'isola. Lasciamo in due, a me i viaggi lunghi non mi piacciono. Io già lo sai che sono andato a Milano per costrizione, per togliermi questo tumore dell'ipofisi, perché se no, se non l'avessi fatto sarei morto. Sono andato in aereo, io credevo di aver paura, invece poi è come essere in pullman, però anziché essere su ruota sei a 5.000 metri con te, ma anche guardando fuori dal finestrino nulla, paura zero, però è una paranoia, devi prendere 10.000 mezzi dall'aeroporto da lì all'ospedale, e poi l'ospedale visto da dentro è brutto, anche se sì, non ho sofferto, non ho, però era come stare in cella, non passavano mai le ore, lo sai, non passavano mai, gli unici momenti di sollievo erano il pranzo e la cena, i pasti, colazione, pranzo e cena, per il resto c'era uno stato d'ansia terribile in ospedale, non so perché, anzi il contrario dovrebbe essere, perché in ospedale sai, se ti viene un colpo, almeno lì c'è il defibrillatore, c'è un tutto, eppure stare lontano da casa mi faceva quell'effetto, c'era uno stato d'ansia che non finiva più, e non ero solo io però. Poi fuori casa ti credo, vabbè dai. Interessante che l'abbia fatto pure, adesso fregatene. Ma bisogna anche uscire un po', ma stare a casa non concludi niente. Sì, anche per le piccine, capito? Allora, un paragone che ti faccio io è come che fossi agli arresti domiciliari, cioè se io fossi agli arresti domiciliari probabilmente starei benissimo, sono sempre a casa, un po' il computer, un po' la TV, un po' sdraiato in poltrona, un po' sdraiato sul letto, guardare la TV, però così non va bene, non sto più camminando a piedi, una volta almeno andavo a piedi al centro, facevo una passeggiata, adesso zero, sto diventando un paralitico. Se non ti dai una mossa, anche io prima non ero così, però stavo sempre a casa, televisione, computer, Guido, baracchino e quell'altro, però vabbè, dai, tante cose sono cambiate per me, purtroppo bisogna uscire. Poi magari sai, magari sono più preoccupato anche per mamma, perché con questa artrosi dell'anca bilaterale mamma cammina a malapena, è un po' fatica a camminare, quindi magari gli serve una cosa in fretta, un po' più volte è caduta anche a casa, capito? L'ho trovata scoricata a terra, proprio meno male anzi che non si è fatta niente. E quindi sai, magari c'è anche quella preoccupazione e si somma un po' tutto là. È tutto un gruppo di eventi, diciamo, dai. Adesso lì si vuole operare, certo, l'ospedale, ti ho detto come la pensano, che visto da dentro è brutto, però se vuole migliorare nel camminare deve fare prima una gamba, le mettono la protesi al posto della testa dell'osso, no? Poi deve fare un po' di riabilitazione, poi quando si è rimessa bene allora farà l'altra gamba, allora finalmente potrà camminare normale, perché adesso è terribile, devi vedere come cammina. Marco, se uno vuole stare bene deve anche fare i movimenti che contano molto. Abbiamo fatto una bella passeggiata in spiaggia, solo che io sono sceso con la scarpa da tennis e non avevo voglia di levarmi le scarpe e camminare sopra la sabbia, non avevo gara, ma credimi, proprio voglia zero, e ho camminato con le scarpe. Invece la mia ragazza è scesa in sandali, se ne è levate in sandali, appoggiati, e si è fatto la passeggiata. Noi quando andiamo al mare facciamo la corsettina, la passeggiata sempre lungo il bagnasciuga. E poi diciamo che il grosso difetto mio è che io in vita mia non ho mai voluto fare sport, zero, né calcetto né nuoto, niente. E infatti adesso sono una larva, Agisogu, com'è che si dice? Pantigobu. Addirittura Pantigobu sei diventato. Allora, ho la curva della pancetta e la curva della gobbetta. Purtroppo la schiena è quella scoliosi, non te ne dico nulla, c'ho la spina dorsale che fa a serpentina, se pare una S. E il problema è che proprio io non potrei nemmeno fare forte lato, Luca, perché a stare in piedi fermo non posso stare in piedi per più di tanto tempo, come fanno quelli di Aushan, no? Quelli che fanno portierazzo. Non posso, ho bisogno di sedermi o di sdraiarmi. Sono con Bolciumali, e la colpa è mia, ricorda, la colpa è mia, perché non ho voluto fare nuoto, e per la schiena sarebbe stato un tocca sana, mi avrebbe raddrizzato la schiena, forse anche mi avrebbe migliorato la scoliosi, capito? Che si è sviluppata già dallo sviluppo, no? Dai 12, 13, 14 anni. E quindi io adesso sto pagando tutto, sto pagando il fatto di non aver fatto moto, di non aver fatto sport da giovane, capito? Vabbè, già sei ancora in tempo, già sei giovane. Cioè, siamo giovani, io ne faccio 44 a dicembre se Dio vuole, tu ne avrai 46, 47, non lo so. Ne ho fatti 47 agosto, però come dico io, 47 anni buttati nel cesso. vabbè, io ti busso lì. Se non ti dai una mossa, non vuoi la giocata da Ian, è come lavoro uguale, per darsi una mossa. Se io mollo tutto, sono buttito. Beh, ci mi do da fare, Marco, sai quanto mi do da fare, un bel. Infatti è buono anche che tu in proprio, no, si faccia queste riparazioni, almeno entrano soldi. Poi, caspita, almeno finché avevo la piscina, non so, vari anni fa, mi spronava a uscire, capito? Eri quasi obbligato, no? A uscire, a portarla fuori, quindi era proprio un incentivo a uscire. Adesso proprio, capito, non ho motivo di uscire, non ho motivo. Sassari, te l'ho detto, a Sassari cosa ha bisogno? I bar, i circoli, cazzo, a me non piace. Ogni tanto Pompugno mi invita lì al circo, a me non mi piace stare ai circoli a bere, non mi piace. A parte che già alcolici ne bevo poco e niente, più niente che poco, capito? E qua a Sassari c'è la cultura dei bar, ormai i giovani, meno giovani, si rinchiudono nei bar, non mi piace a me quella cosa lì. Poi vabbè, quando eravamo più giovani c'era il pub, ma alla fine il pub è la stessa cosa, era un pub, birreria sarebbe mio. il Gambrinus in viale San Francesco, però tutta la sera birra, birra, birra, a parte i soldi che ti uscivano, no, sempre le solite persone, erano sempre le solite, tutte le sere, tutto l'anno le solite persone e la solita birra. Alla fine mi sono staccato dal gruppo, mi è andato tutto al diavolo, è alienante così anche, o lui. Purtroppo qua non ci sono alternative, cosa fai a Sassari? Detto tra noi o lui, Sassari è una città a misura di Sassareggi, ai Sassareggi di Biaggi B è Magnà, però non c'è altro, capito? Non è solo a Sassareggi che Biaggi B è Magnà, non è così, no, non sono d'accordo. E uno mi dice vai a teatro, non mi piace il teatro, non mi piace il teatro, non mi piace, è troppo palloso. E già c'è un po' la cultura del bere a Sassari, capito? Come dicevo prima, qualsiasi barba, io bevo caffè, io prendo caffetteria, prendo roba analcolica. Dovunque guardi, tutti i tavolini, ragazzi, ragazze, giovani, meno giovani, birra, birra, birra, birra, birra. Alla fine non si può vivere di soli alcolici, dai. Marco, quelli sono questi ragazzini che si fumano lo spinello, capi, si vogliono sconvolgere ancora di più, bevendo un super alcolico. È così. Invece c'è quello che si beve una birra. Io la bevo quando vedi, sta calando la temperatura e la birra non mi piace assai, preferisco più un bicchiere di vino, mezzo bicchiere a pranzo, mezzo bicchiere a cena. O magari se in un locale che c'è caldo, me lo bevo un bicchiere o di birra, anche due. Però d'estate la bevo volentieri perché ci scende come l'acqua, ma d'inverno sì, la bevo ma proprio poco. Guarda, io l'unica birra che mi piace bere è la birra al limone, di tutte le marche, può essere Moretti, può essere Dreher, può essere anche quella di Eurospin, la birra al limone è veramente, ma veramente buona. Però la birra normale, la sento amarognola, non mi si vala. A meno che non prenda quelle birre rosse tipo Red Eric, che sono al triplo malto e sono più dolci, quelle mi piacciono. Sì, sì. Lo so, purtroppo è un casino perché c'è un attimo che alla fine è un casino. Marco, tu ti vedi una mossa, uscire, non so, io se non mi ricordo male uscivi ogni tanto con Pomponio, con Gianni, boh. Sì, non si, ma uscittine brevi così da pigliarsi una cosa, insomma. Con Pomponio mi porta sempre al Zilleri, al Vindiolo. Già ci siamo capiti. Non mi piace così, dai. Vabbè, ma ti fanno uscita con Gianni ogni tanto. Io sono me impegnato, perché prima magari ero meno impegnato, facevo i miei lavori e ero più libero, sono da 3 anni fidanzato e sono molto impegnato, ma adesso per dire la mattina sono un po' qua e poi dopo verso mezzogiorno e mezza scendo da lì e sto tutta la sera lì, capito? Infatti ogni tanto questa c'è un altro baracchino di là, ma mi passa la gana, mi passa la voglia di tutto anche a me. Però se sono impegnato che magari sto facendo dei lavori, guarda, mi appassiona e passo il tempo così. Poi detto tra noi, le passioni che avevo un po' prima, ma anche quelle vanno scemando, per esempio il baracchino non è entusiasmante come prima quando c'era più gente, ma anche fino a pochi anni fa mi entrava molta più gente sul 10. Poi vabbè, siamo spezzate un po' le ruote, chi è andato sul 23, chi è rimasto qui, poi anche qua è finito tutto. Adesso stiamo cercando di tenere sul canale. Avevo l'obbligo della fotografia, quindi uscivo di più, facevo più foto, adesso anche quello. E sai cos'è? Quando si diventa più grandi passa la fantasia. Poi io sono sempre pessimista, quindi come dice qualcuno, il bicchiere dice devi vederlo mezzo pieno, no, io lo vedo mezzo vuoto il bicchiere. Cioè vedo più il lato negativo delle cose, capito? Non quello positivo. Sono pessimista, si dice. Ripeto, se tu stai così. così, non ti dai una mossa, non concludi niente, anzi, peggiori. E cosa devo dire di mia madre, che me la sono trattata quasi per un anno, che uscivo poco, nel tempo era quello che era, ero sempre a casa, preparare il pranzo, preparare l'insulina, misurare la glicemia, stare attento ai condimenti, il sale è poco, tutta la roba pesata, insomma scendi di gamba, andare a fare la spesa, tutte queste cose, e però vedi col tempo poi si è ripresa, grazie a Dio ho più libertà. Adesso fa solo un'insulina la notte. Per fare un esempio, anch'io ero un bel legato, stavo nella depressione, anche se avevo l'aiuto di Marina, sai. Però vabbè, è passato tutto, dai, adesso che alle 9:30 gli faccio la puntura. E così, mi si goccio, e chi si è visto si è visto, poi domani non mi devo alzare presto, invece prima mi alzavo presto, mi sono la glicemia, preparare il latte, adesso si fa tutto da sola, si prende la pastiglietta, che con questa pastiglietta qua copre tre insuline, di cui colazione, pranzo e cena, e la fa solo la notte per dormire, basta. Guarda, mi aiuta un po' la musica, a me piace molto ascoltare musica, una volta ero molto più limitato, ascoltavo rock, AC/DC, Iron Maiden, quella roba lì, poi ho cominciato a apprezzare un po' tutto, dalla musica death metal alla musica classica, un po' di tutto, un po' meno quella italiana, tranne qualche tipo Caparezza, sai, quelle cose un po' strane. Insomma, un po' tutti i generi, roba di musica di discoteca, dance, hip hop, rap, tutto, un po' di tutto. Infatti c'è una chiavetta, ci sono tutti i generi musicali, dai più delicati ai più violenti, ai più tremendi proprio, inascoltabili. Ecco, quella mi distrae un po', quella mi distrae un po'. Grazie, vabbè, non dico altro, va. Vabbè, non è solo musica, devi uscire, prendere aria. La macchina ce l'hai, il mezzo, piano piano con tua mamma, vai, ti fa un giretto, e se stai a casa cosa fai, Marco? Scusa. No, ma anche da solo posso uscire, certo. Poi le amicizie lasciamo perdere, Luca. Magari ne hai sentito parlare. Gente che dopo 30 anni di conoscenza si chiede uno smartphone e scompare lui lo smartphone, non un tablet era. Cioè non so cosa pensare, sono allibito. Non me la sarei aspettato, un amico è venuto chiedendo che era senza telefono, per favore ci riprezzavo almeno lo smartphone, scomparso lo smartphone. Mi sono cadute le braccia, non so nemmeno cosa pensare. E comunque lasciamo perdere, le amicizie sono molto relative, Olu. Molto relative. Vabbè, così impari, no? Si impara, no? Prossima volta sai che non funziona così. Se hai bisogno di uno smartphone, tu dici io non posso aiutarti perché non ne ho. Cosa devi fare? Quando uno si comporta in quella maniera. Ma poi di punto in bianco, non capisco il motivo scatenante, non riesco a trovare risposte a questo comportamento, non riesco a trovarle, vabbè, non che vale se, però aspetta, era semi nuovo, vabbè, pazienza, mi è servito a capire meglio come sono le persone, perché molte delle amicizie hanno preso, ti cercavano quando potevano avere sempre, quando li tornava comodo per passaggi, per roba in prestito, quando li tornavi utile, detto papale, capito? Quando li tornavi più utile, ciao, spariti tutti. Vabbè, sai quante cose ho fatto io, eppure vedi, cosa ne hai? Ti faccio un esempio con questo, perché per me era un amico, ci conoscevamo una vita, credimi, non gli ho fatto niente, nulla, o mi ha preso in odio, non mi ha dato spiegazioni, cosa è successo, insomma, tutte queste cose, sono rimasto male perché, ripeto, è una vita, eravamo quasi sempre assieme, mi invitava, quando aveva bisogno, lo aiutavo, sai, ci si scambiava così perché a me diceva non portare niente, uno, facciamo tipo le cene, o mi invitava in campeggio, sai, queste cose così, e niente, va, non... così, punto in bianco, ho preso questa decisione, vabbè. E già vivo lo stesso, solo che non capisco per cosa sono appesa. Io non gli ho fatto niente. Comunque il difetto mio è essere stato sempre troppo generoso, capito? Troppo buono e troppo generoso. E chi è generoso poi la prende nel culo. Infatti già... Mi devo... sai, anche io sono troppo generoso, io faccio delle cose che la gente non merita, sono sincero, non merita proprio manco acqua sporca, ma prima o poi un giorno scoppierò e allora la dirò tutta, né più né meno, adesso sono così, un giorno scoppierò. Vabbè, spero di no, però... Sì, ti portano a un estremo certe volte i comportamenti delle... Infatti io certe volte non parlo più di amici, ma parlo di conoscenti. Conoscenti, boh. Però a distanza. Un po' di carattere rispetto a quando ero ventenne mi sono anche imbastardito, proprio per tutte le cose fatte, combinate, scoperte di alcuni amici, cosiddetti amici. Vabbè, cosa ci vuoi fare? La vita, no? Io ho visto gente che prima era tranquilla, tranquillissima, proprio come sono io, molto giocoso, sono diventati degli avvoltoi, opportunisti, classisti, poi, capito? Che se erano con gente altolocata non salutavano, capito? Ho visto anche gente del genere. Quando erano con persone in un certo ambiente elevato, potremmo dire, facevano finta di non vedere. E io ho detto, ah così, hai zitta tu. Che schifo, guarda, uno schifo. Purtroppo esistono questi personaggi, che sono tutte le razze. Vabbè, io ti posso dire che alla fine un amico è quello che si sente, si fa vedere, ti chiama per vedere come stai, ogni tanto lo frequenti, ma io ti posso dire che amici non naggio, ho conoscenti, perché un amico ci riesci, ti diverti, così, io amici non ne ho, stato l'unico amico che avevo perché ci frequentavo proprio, è questo di questo che ti parlavo prima, ma comunque già... ripeto, non devo dare a nessuno, forse mi ridevi, vabbè, ma non mi interessa, va bene così, ma sto bene con la mia ragazza, poi si vedrà in seguito. Hai detto bene comunque, hai detto bene, hai detto una cosa perfetta proprio, anche calza a pennello. Ok, che ore si sono fatte? Ma non vedo niente, le 20:34. Comunque finalmente almeno a casa abbiamo più fresco, sto meglio, però caspita, a Milano, io andando a Milano ero convinto di trovare un po' di fresco, c'era un caldo africano, Luca, eravamo in zona Rozzano, non proprio Milano centro, Rozzano, all'ospedale Humanitas, no, dentro l'ospedale aria condizionata, ma quando uscivi fuori c'era un caldo africano, e ti dico una cosa, a Milano era pieno di zanzare tigri, cosa che non ho visto nemmeno a Sassari, lì c'erano più zanzare tigri, se ne sono accorti tutti, ce n'erano molte di più rispetto alla Sardegna, non si sa perché questo fenomeno, le abbiamo viste proprio ai giardinetti dell'ospedale, che si poggiavano le zanzare tigri sul braccio, in faccia, e le riconoscevi proprio per quei puntini vivi chiari, capito? Vabbè, vuol dire Milano, vabbè Milano è una grande città, E magari non hanno nemmeno adesso buttato quella medicina che buttano qua almeno, sì ci sono, però con tigri perlomeno non ne ho visto, comunque c'è adesso zanzare, se vai al parco lì a me mi fanno una beffa, e pensare che anni addietro non mi pungevano, adesso capo mi mangiano, e vivo mi mangiano. Infatti prima di entrare lì mi metto repellente, uno spruzzo nelle braccia, nelle gambe, ci sono i pantaloncini, nel collo. E a me non devo avere un punto dove non ho la medicina, perché mi pugna anche in testa, pensato anche in testa. Comunque, quando è che sei andato a Milano? Da poco, Marco? Guarda, a me mi hanno operato il... aspetta, sono andati 2 giorni prima per fare le preanalisi. Mi hanno operato il 3, dunque giugno, luglio, agosto. Giugno mi sembra. Giugno, ma magari sto dicendo cazzate io. Giugno. 3 giugno mi hanno operato, eravamo lì già 2 giorni prima. Sai, siamo andati in aereo, abbiamo preso un appartamento in affitto, attaccato all'ospedale peraltro, è un culo abbiamo avuto. Ah, ho capito, sei andato da solo? No, mi ha accompagnato mia zia, perché conosceva meglio, sai, tutta la situazione dei mezzi, si è scaricato tutte le mappe, insomma, proprio non mandarmi solo, proprio con un cane, insomma, veniva a trovarmi. Però veramente un ospedale all'avanguardia, c'hanno dei mezzi, dei macchinari, delle conoscenze che qua no, dice non, qua non fanno nulla, dice no, qua non operiamo. Eppure c'è la neurochirurgia, a Sassari c'è. E cosa mettono? I cerotti mettono, c'è allucinante. Poi lì sono allucinanti, in quell'ospedale iniziano, c'hanno dei turni, no, c'hanno tutti i turni dei chirurghi, iniziano a operare alle 8 di mattina e smettono alle 8 di sera di operare, è proprio a tamburo battente, una cosa mai vista. Vabbè, qua sono un po' malefristi, diciamo che la sanità qua fa cagare, detto papale papale. Ma se io ti faccio un esempio, no? Un esempio stupido, se a me mi viene mal di pancia per il problema che ho, magari adesso mi prendo un occhi, un antidolorifico, e non mi fa niente, vado lì al pronto soccorso, tipo adesso solo non mi chiamano, se ti chiamano, verso le 2 di notte, devi fare la fila, perché lì al pronto soccorso non ci sono, c'è un solo medico, purtroppo devi aspettare, che mi è già successo, sono arrivato lì alle 9:30 e mi hanno chiamato alle 2:30 di notte. Sì, poi il pronto soccorso è una cosa allucinante, certe volte ci stai 8 ore, cioè da quando arrivi a quando ti rimettono, certe volte passano anche 8 ore, è una cosa da terzo mondo. E guarda che secondo me è peggio di come era prima. Ti ricordi dove era il pronto soccorso prima? No, era più a sinistra. E lì c'era il corridoio centrale con tutte le sale dove ti facevano subito coricare sul lettino. Mi ricordo c'era proprio il lettino. Adesso ti lasciano lì in mezzo a quel corridoietto. Poi ci sono anziani che si stanno pisciando addosso o che hanno, che ne so, il vomito e non gli portano una padella, non gli portano un bacile, nulla. Poi però se ti fai la pipì addosso o stai male, vomiti, ti pilano anche a voci. Cioè a Milano queste cose non le vedevi, lì se avevi bisogno di qualcosa arrivavano correndo, ti portavano il pappagallo, la padella, qualsiasi cosa, ti stavano sempre addosso gli infermieri. E poi c'era un ambiente diverso, c'erano infermieri spagnoli, infermieri filippine, c'erano infermieri di tutte le nazionalità, mai vista un'organizzazione del genere. E poi detto tra noi, Luca, ha avuto culo me, perché se avessi dovuto aspettare i tempi di attesa, sarebbero passati mesi prima di operarmi, e questa cosa, il tumore sarebbe anche cresciuto ancora di più. Invece per fortuna il mio come si chiama? Non andrologo, quello che cura gli ormoni, porca miseria. Ho capito. Adesso ti faccio un esempio, a me hanno detto che siamo fortunati qua in Italia, perché se hai un tumore o qualsiasi cosa che hai, ti fanno un'operazione e non paghi. Invece negli Stati Uniti si paga. Lo stavo raccontando di questo ragazzo che ha un tumore e per farsi operare ha dovuto pagare $4.000. Noi siamo fortunati, però Marco, la testa è brutta, perché se uno si sente male non può aspettare ore e ore lì buttato. se ho visto gente lì a pronto soccorso arrivare in ambulanza e aspettare lì nel corridoio vomitando per via dei calcoli, come me, oppure magari calcoli alla, come si chiama, calcoli renali, dolori forti, e ti lasciano lì buttato, non sono organizzati. Vabbè, purtroppo ci fa bisogno, anche se stai male devi aspettare, è così. Babbo Marco, dai, che io adesso sono loro, ma non quattro, vado a fare la preparare l'insulina a mamma, mangio qualcosa perché non ho mangiato niente, perché mi sono fatto accompagnare direttamente a casa, sono aver cenato di là. Alla prossima, dai, se ne ho voglia già entro. Sì, è lui. Tanto guarda, noi adesso entriamo sempre solo su 10. Così loro magari sul 23 si organizzano meglio, perché certe volte magari entravamo noi, monopolizzavamo con qualche discorso, magari loro chiudevano, capito? Allora meglio stare qua, così parliamo di cose più nostre. E comunque sì, il medico, quello che cura gli ormoni, adesso non mi interi me, conosceva il neurochirurgo dell'Humanitas, perciò diciamo come hanno dimesso uno subito mi hanno fatto salire, se no avrei dovuto aspettare mesi, mi è andata di culo, ma un bel di culo. Va bene Luca, dai, buona serata, buon tutto, buona cena se la devi fare, e se no buona digestione, ok? Dai, ci sentiamo in altre occasioni, ok? Ciao Luca, ciao. Sì, ciao.